Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis, continua il viaggio di Smart City alla scoperta di alcune delle migliori pratiche, tecnologie per l'economia circolare, quelle in cui dal riciclo di un rifiuto nascono nuovi materiali con caratteristiche equivalenti o addirittura in qualche caso superiori a quelle del materiale di partenza. Un problema è quello di evitare la degradazione tra un ciclo di vita e l'altro, che è particolarmente significativo quando si parla di plastica. Ecco perché parliamo di un'iniziativa che partirà a settembre all'Enea, un progetto che mira a produrre filo per stampanti 3D, filo di stampa di alta qualità, quindi a partire dalla raccolta dei RAEE, rifiuti elettrici ed elettronici. Ce ne parla Riccardo Tuffi, che è ricercatore del Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali dell'Enea e coordinatore del progetto. Buonasera Tuffi. Buonasera. Allora, filo da stampa 3D a partire dalle plastiche dei RAEE, i rifiuti elettrici ed elettronici. Perché? Perché i RAEE? Partiamo da qui. Abbiamo pensato ai RAEE perché il polimero maggiormente utilizzato nella costruzione dei dispositivi elettrici ed elettronici è l'ABS. Le scocca, no? Quella plastica della scocca, Esatto. Le scocche dei computer, dei monitor, ma anche di altri elettrodomestici come i grandi bianchi, i frigoriferi, spesso è in ABS o comunque in polimeri derivati dall'ABS. Che è il polimero che tipicamente viene utilizzato proprio per la stampa 3D. Esattamente, la stampa 3D usa diverse tipologie di fili, tra cui l'ABS e l'acido polilattico, certo. Però l'ABS, essendo una plastica, una plastica derivante dal petrolio, è quello che viene più utilizzato anche perché è più economico. Certo, ecco, e a quanto viene venduto un chilo di ABS, che proviene dal riciclo? Perché c'è un aspetto economico interessante in questa iniziativa. Esatto, noi vogliamo cercare di valorizzare la plastica dei RAEE perché nonostante costituisca circa il 30% di un rifiuto elettrico-elettronico, chi tratta i RAEE dà maggiore importanza ovviamente ai metalli, certo. Alla parte metallica di un rifiuto plastico, e quindi se la plastica in generale costituisce o uno scarto o se riescono a recuperarlo in maniera abbastanza pulita riescono a venderla a mezzo euro al chilo. Okay. Mentre quanto costa il filo per la stampa? Mentre il filo per la stampa, chiaramente anche qui dipende dalla qualità, certo. del filo, comunque tra i 25 e i 40 euro al chilo. Siamo due ordini di grandezza sopra. Ecco, qual è la criticità? Qual è l'aspetto difficile che bisogna riuscire a risolvere per mettere in piedi questa filiera? L'aspetto forse più critico è che i polimeri, le plastiche che vengono utilizzate per i dispositivi elettrici e elettronici sono pesantemente additivati rispetto ad esempio alla plastica che viene usata per gli imballaggi, perché devono sopperire a tutta una serie di sono ingegnerizzati per poter essere utilizzati per lo scopo che hanno, insomma. In particolare c'è la presenza di ritardanti di fiamma, la maggior parte dei quali sono a base bromurata, che una volta che sono sottoposti a dei trattamenti termici, come può essere semplicemente l'estrusione per il riciclo meccanico, possono dar luogo a emissioni nocive sia per l'uomo che per l'ambiente. E quindi che ci deve essere poco ritardante di fiamma dentro l'ABS, sì, per poter fare questo, esatto, lavoro. Sì, bisogna, è necessario che la plastica che uno seleziona, oltre a essere sicuri che sia proprio ABS, contenga anche piccole quantità o nulle, preferibilmente di bromo. E come farete a risolvere questo problema? Sì, noi stiamo mettendo a punto una tecnica di analisi che si basa sulla fluorescenza X, che attraverso il campionamento del materiale poi ci permette di avere un'analisi quantitativa molto più rapida rispetto a quello che si fa oggi. Comunque torna questo tema della selezione, la capacità di selezionare i materiali in modo molto preciso per poter attivare questa economia circolare più raffinata. Ci sono altri problemi che affronterete nel corso del progetto, se ci può rapidamente dire quali sono? Allora, un secondo problema che abbiamo intenzione di affrontare è quello relativo all'individuazione delle plastiche nere. Infatti ad oggi i sistemi di selezione che si basano sulla tecnica del vicino infrarosso non riescono a riconoscere le plastiche nere scure perché la radiazione viene completamente assorbita. Questo abbiamo intenzione di farlo attraverso un nuovo sistema di detector che si basa su una radiazione X a bassissima potenza. Tra l'altro, per voi il tema delle plastiche nere è particolarmente rilevante, perché spesso, insomma, gli apparati elettronici sono neri, no? Spesso e volentieri sono neri, esatto, sono neri. Secondo problema è lo studio delle emissioni durante la stampa 3D, cioè queste macchine, queste stampanti 3D sottopongono sempre a un processo termico il filo per poterlo poi formare nella forma che uno vuole, e quindi noi vogliamo capire: ci sono emissioni durante questo processo, e se sì, quantificarle. Va bene, grazie Riccardo Tuffi e buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani, buona serata.